di tigre in cerca di un tetto. Sul ring si combatte senza paura. La folla esplode come tempesta pura. La luce sfavilla nei guantoni. Adrenalina scorre come bolleoni. Ogni colpo un tuono che squarcia il cielo. Non c'è spazio per dubbio cielo. Stelle. Testa alta, non si torna indietro. Ogni sfida, un quadro perfetto. Niente può fermarmi mentre lotto. Spirito invincibile in moto. Le note mi guidano. Benvenuto da Pino Fasciano e l'ora del wrestling. Questa sera nuova intervista, e che intervista! Un talento si farà conoscere. Lo conoscete poco, ma non vi preoccupate. Dopo questa intervista lo conoscerete ancora di più. Voglio anche premettere, ovviamente, per chi ci sta guardando in live e poi, vabbè, per chi poi ci ascolterà su gsradio.it, deadradio.net, radiowifiofficial.it, poi tutte le altre maggiori piattaforme digitali. Poi, nel caso, se poi siete dagli Stati Uniti o abitate negli Stati Uniti, potete ascoltare anche l'intervista su Pandora. Piccola postilla egocentrica. Oggi è il mio compleanno e mi sono voluto regalare un'intervista. Lo sapete, anche io sto invecchiando, tra poco userò il bastone per la vecchiaia. Comunque, a parte i scherzi, mi sono voluto regalare un'intervista con un talento che, come ho detto poc'anzi, conoscerete, e certamente conoscerete. Black Bull, buonasera e grazie di aver accettato. Buonasera, innanzitutto tanti auguri, che ho saputo del tuo compleanno, e sono anche abbastanza onorato di essere il tuo regalo per questi anni. E innanzitutto buonasera anche alla chat, ciao a tutti ragazzi. Allora, non perdiamo ulteriormente tempo, sono tutti gli utenti che poi guarderanno la live o poi la recupereranno in un secondo momento sempre su Twitch. Ripeto un'ultima volta e basta: è un talento che imparerete a conoscere, e un pezzettino, una piccola parte sarà anche merito dell'ora del wrestling. Seguitelo, mi raccomando, parola di Pino Fasciano. Allora, iniziamo subito. Black Bull, grazie per aver accettato questa intervista. Come ti senti a proposito della tua esperienza in FCW? Allora, io mi sento assolutamente contentissimo, anche perché in pochi sanno che io l'FCW l'ho conosciuta molto prima di quando l'ho riallacciata. Ho conosciuto una fiera di San Rocco qua a Lainate, e avevo 12 anni ai tempi. Ho iniziato col wrestling in realtà a 12 anni, ho fatto un annetto, e poi purtroppo per emergenza Covid, non so se devo dire su Twitch, è ancora bannabile, emergenza Covid, emergenza pandemia, tutti chiusi in casa, io diciamo ho distaccato un po' i miei occhi da quel mondo e sono finito per abbandonarlo. Poi io sono uno che con lo sport è andato molto di sport di contatto, quindi ho fatto molti anni a fare rugby per poi riallacciarmi appunto a questo percorso nel 2024. non me l'avevi detto, infatti ti avrei voluto, vabbè, te lo trovo in privato, ma non me l'hai detto, infatti c'avevo qualche cosa che mi sembrava la struttura di un reg pista, che poi non c'è niente di male. Ma in realtà è anche un vantaggio. Sì. Il rugby punta a svilupparti il corpo, cioè chiunque fa rugby sembra che il mese dopo è 20% più grosso, quindi è un vantaggio per questo sport intrattenimento anche. Struttura fisica, resistenza, non dimenticare poi la resistenza, vista, c'è una resistenza. Andiamo avanti. Qual è stato il momento più emozionante ad oggi, e preciso ad oggi, della tua carriera? Nel Brescia, allora, ovviamente. Sì, io. Sempre di quello parliamo, ma comunque io non ho fatto tantissimi match, tuttora sono al mio secondo match, ho fatto due match in FCW ufficialmente debuttando, tra debutto e un altro match che ho fatto allo scorso show dell'FCW, penso che la mia più grande esperienza non sia stato un momento del wrestling, sia stato proprio quando ho iniziato a riallacciarmi a questa cultura, stavo proprio il ritornare ad allenarmi, a fare ciò che mi piace fare. Se parliamo anche di show, di cose effettivamente accadute, il mio debutto penso che sia una delle più grandi esperienze del... L'ho fatto, sono entrato negli spogliatoi e ho detto io voglio rifarlo tipo tra 5 secondi, voglio rientrare su quel ring. Per me queste sono esperienze veramente bellissime. Ti voglio domanda a braccio. È vero, vabbè, l'hai detto tu poc'anzi, dei soli due match c'è stato mai un momento in cui hai pensato, ovviamente parliamo sempre degli show e degli allenamenti, c'è stato mai un momento in cui hai pensato getto la spugna, non vale la pena? No, l'ho pensato semplicemente quando è scoppiato il Covid. Ho pensato a 12 anni, semplicemente perché a 12 anni ho scoperto il bellissimo mondo di videogiochi e non avendo nulla a casa mi sono attaccato lì, ho mollato la spugna, ma in generale sullo sport. In cui non ho mai mollato la spugna è un'altra mia passione che è la musica. Adesso come adesso, no, adesso punto sempre più a migliorarmi, a cercare di fare sempre meglio nel mio piccolo. Perfetto. Ti chiedo, come descriveresti il tuo stile di lotta? Aggressivo, a me piace molto vedere una scena, soprattutto per come mi vedo io fisicamente. Sono sempre immaginato come il cazzuto, diciamo, perché secondo me il ring è anche una figura che dà molto spettacolo allo spettatore. E soprattutto a me piace risultare la parte psicologica dell'incontro. Nella mia testa mi faccio un sacco di viaggi mentali che poi si facciano nel match. Io mi immagino sempre qualsiasi cosa, mi sono immaginato qualsiasi tipo di scenario, qualsiasi tipo di evento che possa fruttare me, un maggiore impatto sullo spettatore. Poi a me piace anche molto l'aspetto teatrale del wrestling, che possono essere i promo, che possono essere le interviste come questa, che possono essere anche battibecchi direttamente sul ring davanti allo spettatore. A me possono, cioè, piacciono veramente questi intermezzi, non soltanto lottati tra superstar, tra ragazzi che effettivamente sono dei veri e propri e cercano di fare come se fosse una specie di anche live show. Alla fine, vedere il wrestling in TV è anche come vedere una specie di serie oltre la lotta, quando ci sono i segmenti nel backstage, quando ci sono i promo, che è una cosa che a me affascina molto. Altra domanda improvvisata. Come riesci a gestire le tue passioni? Come detto poc'anzi, la musica e il wrestling. Cioè, quanto tempo dedichi alla musica e quanto de tempo dedichi agli allenamenti di wrestling? Allora, effettivamente ci alleniamo ogni venerdì sera, quindi è anche facile capire come gli eventi musicali molto spesso li fanno il sabato. Ho effettivamente un 50 e 50, perché sono due passioni che, diciamo, mi piacciono molto e che cerco di portare a pari passo. Poi ovviamente la musica la faccio quando sono più piccolo e la faccio da molto prima del wrestling, quindi ha sempre avuto quel passetto in più, però effettivamente cerco di dare la stessa importanza. Andiamo avanti, iniziamo con le domande simpatiche nei tuoi confronti. Sì, inizio. Black... ti avevo avvertito, mi spiace. Black Bull è lottato solo due match in FCW. Cosa ti fa pensare di poter avere successo nel wrestling o di poter emergere, se preferisci? Beh, penso sia il termine giusto, essendo che sono ancora un piccolo seme che deve sbocciare pian piano. Onestamente, per adesso nulla, cioè è sempre il puntare a migliorarsi, il puntare ad avere sempre qualcosa in più, non per forza di perfezione, ma è un po' come la musica per me, di sempre avere qualcosa di nuovo che lo spettatore veda e dica: oh, ma quello fa una cosa che fa soltanto lui, quello fa una cosa che lo distingue, e secondo me è una cosa molto importante. Cioè anche per esempio la WWE, la cosa più famosa, abbiamo visto molti wrestler che, nonostante non avessero un'eccessa maestria delle tecniche, un tecnicismo appunto o un modo di fare dell'atletismo in confronto a molti altri, hanno quelle cose che dici: ma a me questo qua piace perché fa una roba diversa dagli altri, perché riesce a farla bene, perché è una roba sua. Sono dei punti a favore, secondo me, sono i propri punti di forza che devi allenare sempre più. Ovviamente poi ci resta anche tutto quanto il resto, però se tu già inizi a dare importanza a quei tuoi punti di forza, perché già conosci bene, essendo tu, hai qualche passetto in più, secondo me, hai qualche vantaggio. Ti voglio chiedere, qual è il tuo lottatore preferito e hai un lottatore a cui ti ispiri? O che pensi di poter trarre vantaggio? Allora, dico, lottatore preferito, ho avuto come primissimo lottatore preferito Rey Mysterio quando ero piccolo. La prima volta che ho visto wrestling era uno show di SmackDown, Rey Mysterio contro Sin Cara. Quindi lì atletismo, luce incredibile, bellissimo. Ho visto, più mi sono innamorato, questo folletto con la maschera, contro la mascherata, però effettivamente direi mi si quel bel pantalone largo che rimbalzate le corde, un matto. Poi sono passato a Roman Reigns, che l'ho la prima volta in un trip in tag team 3 contro 3 tra lo Shield, Rey Mysterio, Sin Cara e un altro wrestler che non mi ricordo come ora. Sì, forse Sheamus, non mi ricordo. Una bella genere. Comunque sì. Poi è passato Roman Reigns perché io sono sempre stato affascinato da quel, cioè è letteralmente un mostro di capelli lunghi, cattivissimo. Samoano, poi faceva la spia, io correvo, dicevo: mica quello la placca le persone, io parlo anche io. E mi sono sempre ispirato a lui anche per quanto riguarda la gimmick, cioè effettivamente io punto molto a ritrovare, tra l'altro la mia finisher, la spear, e è una cosa che mi è sempre piaciuto vedere Roman Reigns, ma anche il come lotta i match. Cioè, Roman Reigns non è il fare 50 spot uno dopo l'altro. Roman Reigns è proprio prendere il ring e farlo suo. Poi ci sono stati molti altri wrestler a cui mi voglio ispirare, che mi piacciono molto, come per esempio Dean Ambrose ai tempi dello Shield, ma anche poco dopo. Poi non parlo di Jon Moxley semplicemente perché non seguo l'IW, almeno la seguo, ma non troppo. E a me piaceva tantissimo il Latin Fringe, che saliva, pigliava per il culo gli avversari e poi li spaccava, che era un pazzo furioso, letteralmente. E quello sguardo sadico, quei sorrisi al limite dello psicopatico, bellissimo. Poi un altro, sempre per il termine psicologia, che avevo detto per Bray Wyatt. Bray Wyatt per me è sempre stato un genio nelle storyline, per tutto. Una domanda cattiva e provocatoria. Vai. Cosa pensi di poter prendere, perché hai sotto gli occhi di tutti, potresti benissimo interpretare una nuova versione di Moxley, ovviamente in salsa italiana, che ci manca, non è che ne abbiamo tantissimi, parere mio personale. Però cosa pensi di poter prendere da Moxley, intendo e portartelo nel tuo background, e cosa vuoi prendere da Bray Wyatt? Allora, è stato chiaro. Guarda, da Bray Wyatt semplicemente potrei prendere il modo di interagire psicologicamente con le altre superstar. A me anche tutto il fattore comunque psicologico promo in tutte le rivalità. Per quanto riguarda Dean Ambrose, perché io parlo ancora di Dean Ambrose, quello vecchio, il suo modo di fare assolutamente nei match, per fare un po' cazzone, ma cazzone cazzuto. Per piacere, Black Bull, ripeti un'altra volta su Bray Wyatt, perché purtroppo è saltata la connessione, si è sentita spizzica. Ah, okay. No, la sua psicologia nelle storyline e nei promo. Il suo, diciamo, il suo modo di usare metafore, crearsi un mondo tutto suo. Io la Farfly Funhouse, per esempio, l'ho adorata. Anche il match con John Cena verso il 1036, molti l'hanno odiato. Io l'ho adorato perché letteralmente distruggere John Cena dalla sua mente, ed è bellissimo. Graziano Piso, che saluto in chat, ti chiede: quindi sei un heel? Spiegamo un poco gentilmente per la tua esperienza in FCW, eppure come stavo parlando prima di entrare nella live, delle tue interferenze, per spiegare un poco il tuo stile di heel, da heel. Prego, prego. Ah, molto semplice, ragazzi. Io non dirò sono un heel o sono un face. Se avete sapere, dovete venire agli eventi. E questo è come si... No, vabbè, no, seriamente, secondo me dovreste venire agli eventi a scoprirlo. Comunque, si può dire, cioè, il non è semplicemente quello che ti insulta, non è semplicemente quello che offende il pubblico. Si deve vedere anche la come si comporta. Tu puoi avere anche un cazzone, ma comunque che il pubblico spinge. Come può essere, puoi anche avere un fesso odiato, come può essere appunto Roman Reigns del 2018, che era strapompato, super spinto dalla dirigenza, ma poi il WWE Universe lo odiava, ma lo odiava forte. Torniamo alle domande, alle nostre domande. Quali sono i tuoi piani futuri per migliorare, sia dal punto di vista dell'intrattenimento, sia dal punto di vista del background dell'ottato? Allenarsi e farsi tanto tanto il culo. È l'unico modo. Tanta forza di volontà e tanto olio di gomito. Ti voglio anche chiedere, torniamo un momento indietro, dove ti stai allenando e con chi ti stai allenando? Ragazzi, io FCW, residenza è sempre Pera. Ho detto sì. No, poc'anzi, vabbè, mi sono spiegato male, ti stai allenando con Giacomo Giglio o con... Sì, Giacomo Giglio. Ah, no, ho detto con lui proprio. Ecco. Torniamo alla domanda. C'è stato, vabbè, mi sono espresso male, colpa mia, scusami. Vai tranquillo. Com'è Giacomo Giglio come allenatore? Divertiamoci, prego. È giusto, è semplicemente giusto, ragazzi. È un allenatore che ti fa fare il giusto, che ti corregge sulle cose che sbagli. Come ogni allenatore deve essere severo e puntiglioso nei punti giusti. Ma perché se tu ti prendi uno troppo rigido, alla fine ti rompi i coglioni. Se ti prendi uno troppo molle, alla fine finisci per non imparare nulla. Quindi bisogna avere sempre quell'intermezzo. Secondo me TG è uno dei migliori a fare. Cioè, avevo quel modo di fare che ti dice che se ti vede proprio che ti impegni nel fare una roba, ti aiuta più non posso, perché è uno... che se tu ti impegni a fare una cosa, dici voglio fare quello, e gli fai vedere che c'è la voglia di farlo, ti aiuta in ogni modo per farlo. Se invece tu dici vorrei fare quello, poi si vede che non hai sbatti, che non vuoi farlo, che non hai voglia, per qualsiasi roba è la testa altrove e non la prendi seriamente, a quel punto chiunque ti direbbe da quel paese, ma è giusto, cioè lo farei anche io, lo farebbe chiunque. No, scusa, mi è stato un quid pro quo, non sapevo, che non ti avevo chiesto se ti stavi allenando proprio con lui o aveva delegato a qualcun altro. Invece adesso mi hai detto che ti stavi allenando con lui e perciò era legittima e ovvia la domanda. Torniamo a un altro Graziano Pisu che ti chiede: com'è il tuo allenamento quotidiano? Allenamento quotidiano, ragazzi, io, allora, sarò onesto, io faccio una scuola lavoro, ok? Scusa che ci ho ripreso con la cover. Io faccio una scuola lavoro, quindi faccio un giorno a scuola e 4 giorni a lavoro. Per quello che riesco, sto provando anche a fare qualcosina a casa. Poi, patente volendo, soldi permettendo, purtroppo adesso andare in palestra e pagarmi l'abbonamento è abbastanza difficile di mio, se no che cerco di mettermi sempre di più in proprio. E quindi qualcosina a casa per, diciamo, aumentare cardio e per buttare giù quei chilati che sono di troppo. Andiamo avanti, poi faccio un messaggio promozionale perché c'ho giustamente da promuovere il prossimo show dell'FCW e poi pure gli allenamenti dell'FCW, ovviamente per chi sta guardando e per chi poi guarderà e ascolterà in un secondo momento. Ti ringrazio per farlo. Ci mancherebbe, l'FCW è casa mia e lo sa anche il buon Giacomo G. Come rispondi alle critiche di quei simpaticoni, dei tuoi haters che dicono che sei un wrestler da una notte via? Nessun doppio senso, è meglio che lo dica a chi guarda e a chi ascolta, non c'è doppio senso. Ma in realtà si può comunque congiungere la roba, se ci pensi. Poi una volta che magari tu dici, cioè quella ragazza che dici mi farei una notte, poi il giorno dopo chissà, magari la... Poi magari quella donna torna qualche anno dopo, che è una che è voluta da tutti, ci provi tu e ti snobba. Può essere la stessa cosa, ma come per me con chiunque. Cioè, chi pensa questa roba può anche pensarlo. Io, onestamente, qualsiasi grande porta a casa, sono tutti spunti per migliorarsi. Perfetto. Scusami solo un secondo, aspetta, ma devo... Ecco. Allora, sabato 26 aprile, ore 21:15, Catch is back a Palazzetto Sportivo Pero, piazza Guglielmo Marconi, se va Pero ovviamente, metro rossa Pero. E vabbè, i biglietti sono, vabbè, disponibili sul sito, vabbè, FCW, comunque chiedete informazioni sul proprio... Sì, ragazzi. Sul nostro profilo Instagram trovate sul nostro profilo Instagram trovate tutto, ci sono le storie, ci sono i biglietti online che potete prendere prima, ci sono i biglietti sul posto se non avete tempo di fare quelli online o non ci avete fatti, ma dovete sempre farli perché onestamente io lo consiglio, è meglio, potete prenotarvi tutto. L'ultima volta scusami, 26 aprile, ore 21:15, Catch is back, il nuovo show dell'FCW, Palazzetto Sportivo Pero, piazza Guglielmo Marconi, linea M1, ticket online, apertura dei cancelli, ore 20:30. Però poc'anzi, dato che mi hai messo, come si dice, la pulce nell'orecchio, volete allenarvi con Giacomo Giglio? Ogni venerdì dalle ore 19, sempre a Palazzetto Sportivo di Pero, sempre a piazza Guglielmo Marconi, ovviamente sempre al Pero. Per informazioni potete consultare i social, Facebook, Instagram dell'FCW, ovviamente, perché non voglio dare i numeri di telefono durante la diretta, si potrebbe anche fare perché cioè, è pubblico, però sempre meglio evitare, anche perché Giacomo G non mi ha autorizzato a dare i numeri di telefono in diretta per quanto riguarda gli allenamenti, per informazioni sugli allenamenti, quindi consultate il profilo Facebook e Instagram dell'FCW che ci sono tutte le adeguate informazioni. Quindi non dimenticate, sabato 26 aprile Catch is back e poi ogni venerdì dalle ore 19 per gli allenamenti, per i corsi di allenamento, per chi vuole diventare wrestler, e ovviamente è aperto sia a chi vuole diventare e ovviamente i wrestler veterani, comunque i giovani wrestler come Black Bull, ogni venerdì dalle ore 19. Spero di aver detto più o meno tutte le informazioni giuste. Se c'è qualcosa che sono stato impreciso, c'hai facoltà di correggermi. Prego, prego. È giusto, è giusto. No, anche perché poi gioco un giro meno, che dicevo, non è neanche pubblicizzato bene. Forse lo sto facendo perché voglio che ti... No, scherzo. Ci ho provato, che poi Giacomo Gio... una persona squisitissima, assolutamente. Graziano Pizzo ti chiede: com'è il tuo rapporto con il pubblico e poi quanto è importante il pubblico nel wrestling dal tuo punto di vista? Ragazzi, il pubblico è importantissimo per me. Il pubblico è una delle cose che fanno lo show, perché come ci siamo noi su ring a spaccarci la schiena, ci dovete essere anche voi sotto che ci supportate e ci urlate. Come può essere un you suck per un heel, potrebbe essere anche un go per un face, ed è una cosa che so che non sembra, ma fa tantissimo. Soprattutto vedere la gente da sotto che anche ti fischia, vuol dire che tu stai facendo un buon lavoro. Vuol dire che se la gente ti dice vai vinci o no devi perdere perché mi stai sulle palle, tu stai facendo un buon lavoro, perché è ciò che devi fare ed è ciò che fa effettivamente la differenza, perché se uno ti vede e resta indifferente è anche un po' colpa del performer. Però devo ammettere che in Italia, non avendo troppissima, diciamo, divulgazione, non troppissimo pubblico ad ogni evento, ad ogni singola federazione, ci sta che il pubblico non sia del più gasato possibile. Poi dipende sempre dall'evento, eh. Ci sono stati anche, cioè, nell'ultimo evento il nostro pubblico era davvero molto gasato e ha praticamente urlato per chiunque. Abbiamo fatto delle ottime figure. E il pubblico, ragazzi, è importantissimo. Cioè, come ci deve essere un quadro fantastico, ci deve essere anche una fantastica cornice, secondo me. Black Bull, adesso sono arrivate le domande che ti piacevano tantissimo, che mi volevi ringraziare infinitamente, non si sapeva, ti stavi cadendo dal divano, dal tavolo, da dove stavi cadendo. Quelle domande quelle domande che ti voglio talmente tanto bene e non ti conosco. Seriamente ti auguro sempre il meglio, prima come persona, poi come lottatore. Sei stato gentilissimo. Voglio anche precisare che come ti ho contattato, mi hai detto, ti sei messo subito a disposizione, mi hai detto quando, subito. Io sono apertissimo per queste cose, anzi grazie a te per avermi invitato, appunto. Wow, due match in FCW, sei davvero un veterano del wrestling, come ti senti a proposito del tuo grande successo? Penso ti vedevo anche nel loro film della WWE. Scusa, questo ho aggiunto, è un di più che non ci sta, però vabbè, ho voluto rincarare la dose. Prego, sta prego. Tantissimo invece, perché no, vabbè, a parte di scherzi, onestamente, raga, un veterano, uno può essere un veterano anche facendo soltanto, cioè può essere anche un veterano del wrestling soltanto allenandosi, perché magari non c'ha cagato ad esibirsi. Ma quanto riguarda veterani, non si nasce, veterani si diventa, quindi adesso aspettiamo. Io vi dico soltanto di aspettare, poi in futuro magari mi vedrà, vediamo dove sarò, magari non so, non sopravviverò fino a domani, magari sopravviverò fino a 150 anni, farò ancora wrestling, chi lo sa, poi facciamo corna e vediamo. Mi è piaciuta la tua risposta. Seconda, aspetta, mi devo un momento concentrare, perché devo uscire, devo usare la tonalità giusta. Qual è il tuo segreto per essere riuscita a sopravvivere così tanto tempo nel wrestling con così pochi match? Appunto, fare pochi match per sopravvivere di più. È logica, ragazzi. Touché, ci sta, però, ci sta. Touché, ma è logica. Poi, ultima. Come descriveresti la tua carriera in poche parole? All'inizio, state a guardare. Molto semplice. seriamente allo sparo prima della cosa. Ripeti un momento. Per me siamo all'inizio, ragazzi. Lo sparo prima della corsa, non è ancora iniziata del tutto. Perfetto, grazie. Seriamente, supportatelo, fidatevi. Se avete fiducia in Pino Fasciano, e sono anni che faccio le interviste, seguite Black Bull. Come poi, vabbè, supportate l'FCW, ci mancherebbe più. Supportate Gioco Mogiglio, e su quello mi faccio anche bruciare la mano come Muzio Scivo. Giacomo Giglio ha bisogno del maggior supporto possibile. Adesso saranno peggio Black Bull, sono fin troppo cattivo. Guardiamo in un futuro in cui sei ormai verso a fine carriera, però continui. Chi te lo fa fare di continuare a lottare? Questo sembra in prospettiva che sia a fine carriera. Fine carriera, dammi un range di età. Hai la mia età, che te l'ho detto. Ok, allora. E te l'ho detto, quindi non puoi neanche dire non lo so. Ma sì, appunto, ma chi me lo fa fare, ragazzi? Ric Flair continua a lottare a 74 anni, io non posso lottare a forse la metà dei suoi anni, quindi onestamente chi me lo fa fare? Se tu hai passione per una roba, ce l'hai, punto, è finita. Tu puoi continuare a farlo anche a 90 anni, per quanto mi riguarda. Stessa roba per il rap, la stessa roba per la musica. Cioè, onestamente... Sì? No, vai, continua. No, ragazzi, semplicemente per un semplice... Raga, Eminem adesso ha 50 anni, anche voi direste, ma chi glielo fa fare? Nonostante lui può dire, i soldi. Fabri Fibra ha 50 anni, chi glielo fa fare? Vabbè, anche questo i soldi, però comunque la passione. C'è gente che non è ancora emersa nella musica e che continua soltanto per passione. C'è gente che non è ancora emersa nel wrestling, ma che lo continua soltanto per passione. Quando tu una roba ce l'hai dentro e ti brucia, ti scalda, è forse l'unica roba che ti fa tornare a casa felice dal lavoro distrutto. C'hai una moglie, 4 figli che ti rompono le palle perché vogliono il nuovo gioco della PlayStation. Mamma mia! Che bello che almeno c'è questo. Lo so, una brutta vita. No, mamma mia! Lo so, è tragico, però è una brutta vita. Però magari c'è quella cosa che dici, minchia, adesso vado a casa e mi alleno, faccio musica e ti ritorna subito il sorriso. Hai ragione. No, sto facendo segno, che non è che devo andare in bagno. Sto facendo segno, ne cambio due. Allora, prima ne cambio due, ne sostituisco due. Prima, alla Gigi Marzullo, guardati allo specchio, fatti una domanda e datti una risposta, poi ti faccio la seconda. No, io non c'ho uno specchio qui, però sicuramente se mi guardassi allo specchio si romperebbe. Mi devo dare una risposta soltanto alla mio specchio, direi ci sta. Cioè, onestamente, sto diventando un misto di cose che voglio essere e un misto di cose che non voglio essere, e la cosa mi affascina in modo abbastanza drastico. Seconda domanda che ho sostituito. Allora, fai conto quando eri piccolo, e guardavi il wrestling. Torni indietro. Ad oggi, ovviamente, sto parlando solo di wrestling, non c'entra niente la vita personale. Allora, da quando eri fan, o comunque quando guardavi il wrestling ed eri piccolo, ad oggi che lo stai praticando, se tornassi indietro, andresti comunque avanti a praticare il wrestling o te le pentiresti? No, assolutamente sì. Assolutamente sì, perché da quello che vedevo come semplice lotta ho scoperto un'arte praticamente. Diciamo che secondo me da piccolo, quando ti approcci al wrestling, sei un po' come i fan ignoranti che lo guardano adesso dicono ma è finto, ma è finto. Ragazzi, secondo me è un'arte, è una cosa che va oltre il dire è finto, il dire si fanno male davvero, il criticare una cosa. Cioè, secondo me, se ecco, è una di quelle cose che se tu non la vivi non riesci a capire com'è. Ecco, Black Bull, questa è una ovviamente nuova, però l'hai accennato, quindi ne posso approfittare. Mettiti nei panni del fan e okay, creami uno spot in difesa del wrestling in generale, ovviamente, che può essere italiano come può essere nordamericano. Mettiti uno spot in difesa del wrestling. Sì. Anche dicendo semplicemente non è ci facciamo veramente male, vabbè, le solite il classico, però preferirei che ti inventassi qualcosa di nuovo. Comunque prego, a te la parola. Allora, io ho praticato molti sport, sono passato letteralmente da fare rugby, equitazione quando ero molto piccolo, ho accennato il basket, ho accennato il calcio, ho fatto praticamente di tutto, anche se alcune per poco tempo, ma era quel provo e vedo se mi piace, ok? In alcuni sport mi sono fermato alla settimana di prova. E ti dico, tu prima di criticare qualsiasi cosa, tu provaci. Perché tu puoi vedere una cosa da fuori, come me, non piace praticare il calcio, e ho sempre, io sono sempre fermo nella mia affermazione che il calcio non è fatto per me. Ma perché? Perché io, avendo fatto sempre rugby, sono uno molto fisico, io ero uno di quelli che ti tirava una spallata, anche che non era fallo, ma anche che ti toccassi, guardavano e dicevo, ma che cazzo è? Cioè, se devi simulare, prenderti un fallo tanto per avere un rigore, fare un punto in più così, a me non sta bene. Però l'ho provato. Ho provato prima di dire che non mi piace. Tu devi partire con l'idea che se una cosa non ti piace, non puoi dire non ti piace senza nemmeno esserti avvicinato a quel mondo. Ok? È lo stesso discorso che come con lo sport puoi farlo con la musica. A me piace il rap, a me non piace, non lo so, il reggaeton, ma non posso dirlo senza ascoltarlo. Io mi faccio una mansion, mi faccio un bel viaggio nelle sonorità del reggaeton, i vari artisti, magari qualcuno che mi piace lo trovo anche, però posso soltanto dire una volta che l'ho ascoltato, una volta che ho provato, mi piace o non mi piace. Ed è quello che molti dovrebbero fare con il resto, invece di partire a dire è finto, è predeterminato e tutto quanto, che può essere anche predeterminato, ma ragazzi, c'è gente che si fa il culo letteralmente 24 ore su 24 semplicemente per arrivare a fine mese, fare un match che può essere anche un job, che può essere anche una roba di 4 minuti, e dare tutto se stesso per fare un favore a te che ci stai guardando e ci stai insultando. Quindi c'è bisogno di rispetto per sportivi e artisti, c'è bisogno di rispetto in generale per chi si fa il culo per dare qualcosa a un pubblico. Dal punto di vista, questo sempre al momento, è meglio che te lo preciso perché non era una domanda prevista. Dal punto di vista puramente fisico e dell'allenamento, quindi allenamento in palestra, allenamento pure alzando per dire una panca, vabbè, non è che voglio offendere. Quali sono le differenze tra il wrestling, parlo dal punto di vista, ti ripeto, dal punto di vista fisico e dell'allenamento, giusto che te l'ho preciso, tra il wrestling e il rugby? La differenza di allenamento? Sì, dal punto di vista fisico. Allora, spero che puoi rispondere. Io mi sono sempre visto che il wrestling per me è un prendere la tua energia e dividerla per tutto il match, in modo da avere sempre l'energia che ti serve per non arrivare a un certo punto del match che ti stendi a terra. Invece nel rugby io ho sempre fatto un altro ragionamento, ho sempre detto, io finché la palla è distante da me e non c'entro nulla con l'azione, magari la palla è completamente a destra, io sono a sinistra, sì, seguo l'azione perché posso rendermi utile, ma il dare tutto subito e per recuperare pian piano nei momenti di morto, ok? è il dare lo sprint al razzo. Prendi la palla e corri, vedi un uomo che ti viene contro, lo placchi, e in quel momento devi essere da 0 a 100 subito, ok? Perché se io ti placco e sono flaccido, sono il 50% della mia energia, non ti butto giù. Io devo essere un animale per quei 20 secondi e poi posso tornare a temporeggiare, aspettare. Invece nel ring devi avere un po' di energia per qualsiasi cosa. Grazie. Graziano Bisu dalla chat ti chiede, nel tuo caso e dal tuo punto di vista ovviamente, quanto ti serve e ti può servire essere creativo, nel senso poter migliorare, cambiare il tuo personaggio ed avere carisma? Tantissimo. Secondo me la personalizzazione del personaggio che ti rende diverso, ed essere diverso è buono, essere diverso è giusto, ed è quello che ti fa dire non si vestono tutti allo stesso modo, ed è quello che, anche per esempio partendo dall'attire, partendo dalla musica, adesso prevalentemente io quando immagino una theme song di un wrestler, immagino qualcosa metal, ma ci sono un sacco di wrestler con una theme song che può essere presente in dance. Se per esempio prendo Yuso, loro hanno una theme song rap, è tutto quello che crea un personaggio. E tu più ti differenzi dagli altri, più fai meglio. Ed è una cosa importantissima. Quindi anche quando prima hai fatto la domanda del prendere spunto, sì, io prendo spunto, ma non è che da me voglio diventare quello. Io resto me, mi miglioro, e poi pian piano da questi piccoli punti, che possono essere un wrestler, un altro atleta, cerco di prendere quelle piccole cose che mi piacciono, unirle in me, personalizzandole, e farle mie, e renderle qualcosa che può darmi qualche diversità. Ti voglio anche chiedere, ovviamente ti provoco, tra quanto vedremo un match tra Black Bull contro Horus, Black Bull contro TG, Giacomo Giglio, un match Black Bull contro Crimi, tanto per fare tre nomi a caso, tre nomi che... Siamo ufficiali, I migliori, o comunque... Ma spero non troppo tardi. E vi lascio così. Vi lascio così. Vabbè, sì, giustamente per guardare i prossimi show dell'FCW. Tu sci. Veniteci, almeno lo scoprite. Adesso ti provo, poi, però senza essere volgare, almeno ti riempiono di parolacce. Anche quello ti deve far piacere. Sì, perché se Dominic Mysterio non ha l'atletismo del padre, ma è un ottimo heel, perché appena apre bocca lo fischiano, ed è quello il lavoro, è quello che ti fa dire, minchia, ma che lavoro sta facendo qua, che la sua funzione è quello, lo fa, non riesce mai a parlare, lo fischiano, quindi... Parla? Ci sono. Mi senti? Ora sì, ripeti un momento perché si era sentito malissimo. Ripeti. Ah, ok. No, volevo fare questo ragionamento su Dominic Mysterio, che nonostante non ha l'agilità. Sì, non ha l'agilità del padre alla sua età, però ha un modo di essere il che appena apre bocca la gente lo fischia perché non vuole sentirlo, e quindi è uno che fa un ottimo lavoro per quello che deve fare lui. Perfetto. Un'altra domanda e poi faccio un altro messaggio promozionale. Come gestisci lo stress e la pressione prima e dopo aver disputato un match o comunque aver partecipato a uno show? Allora, io trovo questa cosa uguale a quando mi esibisco su un palco. Prima che mi esibisco su un palco mi dimentico tutto, sono in ansia. Non so i pezzi delle canzoni, non so le frasi, nonostante siano mie. Non mi succede con i match, fortunatamente, ma è ansia, ansia pura. Poi io ho questa roba che appena entro su un palcoscenico, che può essere un ring, che può essere un musicale, mi trasformo, divento tutta un'altra persona, entro al 100% del personaggio e lo rendo mio. Cioè io passo ad essere la mia persona, ad essere Blackpool, ad essere RB8, ad essere qualsiasi altra cosa. A me basta il mio palco e l'ansia scompare del tutto. È una cosa che a me piace molto. Due messaggi con la vostra, scusate per un secondo. Questa intervista la potete ancora recuperare su Twitch, poi la potete recuperare su gsradio.it, dandyradio.net, radiowifiofficial.it e le maggiori piattaforme digitali, se poi vi vedete negli Stati Uniti anche su Pandora. Poi passiamo a cose ben più serie. Catch is back, sabato 26 aprile 2025, ore 21:15, Palazzetto Sportivo Pero, Piazza Guglielmo Marconi, linea M1, ticket online, seguite ovviamente i profili social Facebook, Instagram, profili social per maggiori informazioni dell'FCW, e poi apertura dei cancelli ore 20:30, non perdete lo show, ci sarà vabbè TG d'Italia Immortal, Giacomo Giglio, Horus, Mickey Hunter, Cree. Ci sarò anche io, ciao. È stata una, non è che l'abbiamo fatta apposta, però ti ringrazio. Ciao, non mi conoscete, ma ci sarò anche io. Sei stato un grande, non era concordato, ma ti ringrazio. Non era concordato. Là, tutto in live. Ti ringrazio, a parte gli scherzi. Non dimenticate i corsi di wrestling dell'FCW ogni venerdì dalle ore 19, sempre a Palazzetto Sportivo di Pero, sempre a Piazza Guglielmo Marconi, ci sarà l'Italia del Morto a TG Giacomo Giglio, poi può essere che vi allenete pure con Black Bull, con Creamy, con Mickey Hunter, eccetera eccetera, non vorrei mettere a elencare tutto il roster. Seguite Black Bull, supportate Black Bull, seguite l'FCW e supportate l'FCW. Siamo quasi agli sgoccioli di Black Bull. Ti faccio un'altra domanda, visto per festeggiare che sei il mio regalo di compleanno, fammi tu una domanda a me, ovviamente su wrestling personale, prego. Benissimo. Adesso avrei due domande, molto veloci. Allora, la prima è un po' cattiva. Domanderei chi è, dal tuo punto di vista, il tuo preferito del roster FCW? Ed è la prima. Ma ti lascio rispondere e poi ti dico la seconda. Sarete dato da dire Giglio perché l'ho intervistato più di una volta. Però rispondo, col nome Horus. Perché? Per il suo stile di lotta che apprezzo. E tu dici perché? Perché io comunque i video li guardo e c'ho uno stile duro che mi piace, oltre al fatto che l'ho intervistato ed è stato gentilissimo. Beh, anche questo pesa, però è più per lo stile di lotta, che guarda, solo chi conosce il wrestling può apprezzare lo stile di Horus, che è veramente un fan di wrestling. Spero che ti ho soddisfatto con la risposta. Okay. E la seconda è, tu invece, da penso fan, tuo padre aver capito, sei un fan dell'FCW, che cosa ti aspetti da Catch Is Back? Colpi di scena, ovviamente che si riesca un poco a dipanare, sì, la risposta è giusta, la parola è giusta, comunque tutto attorno al titolo più importante, che vedo che ci sono parecchi contendenti. Spero che sia soddisfatto. Soddisfattissimo. Vabbè, devo lasciare anche il dubbio per chi ascolta e che eventualmente vorrebbe andare a vedere o vorrebbe interessarsi all'FCW, devo dare non anche... facciamo troppi spoiler. No, vabbè, ma anche la curiosità di consultare, di conoscere Giacomo Giglio, a pezzo che non lo conosco, Blackpool, Horus, Vicky Hunter, Crimi, poi mi sono dimenticato pure, come era, Snake, Winged, come era, aspetta. Winged Snake? Mi sbagliato, vabbè. sì, lui, Cloud... Aggiungo pure che ultimamente stanno presenziando agli show dell'FCW Violenzo, Emilio Torres, poi ultimamente da Torino, poi ultimamente c'era pure Zaffiro, che comunque ho guardato, sono informato, un altro lottatore di talento che ha altrettanto Violenzo, Emilio Torres e Zaffiro, vi invito a recuperare le loro interviste all'ora del wrestling. Vabbè, giustamente mi devo fare pure io pubblicità, permetti? E fai bene. E permetti? Poi, vabbè, sono un fan e non lo posso negare, poi sempre e comunque sull'ora del wrestling si troverà qualcosa che pubblicizza l'FCW. Quindi se consultate l'ora del wrestling troverete sempre qualcosa che parla dell'FCW, e ringrazio pure, mi trovo, il buon Andrea Volpato. Allora, ultime tre. Prima Graziano Pisu, è stato un piacere ascoltare Black Bull e ti auguro il meglio nel wrestling. Anche a te, Graziano. Poi, prima mia, poi ce ne sono altre due. Allora, qual è il tuo messaggio per i tuoi fan e per coloro che ti sostengono? Ma può essere lo stesso per i fan e per gli hater. State connessi. È una cosa molto semplice, molto veloce, molto spigliata. E state connessi. Oh. Soltanto guardando il futuro capirete cosa potrà succedere. Poi una domanda che possibilmente devi rispondere in gimmick. Un tuo breve messaggio, un messaggio in previsione di Catch is Back, indipendentemente di che cosa farai. Ecco, mettiamola così. Ok. Allora, senza fare spoiler, non vi aspetterete mai quello che sta per succedere, fidatevi. Qualcuno beccherà delle sonore mazzate. Anche per lasciare il mistero, se vogliono saperlo, devono venire a vederti, perché ci sarà sicuro. Non so che cosa farà, ma ci sarà. Questo è poco, ma sicuro. È giusto pure a dirlo, perché vorrei mai... Sto facendo tutto sto teatrino e poi giro che ti ricino, poi... Vabbè, ma se mai non vengo, faccio pure questo. Ma a parte scherzi, comunque ti auguro il meglio, te l'ho detto già prima, ma te lo ripeto anche se vai in scuccio, ti auguro il meglio per la tua persona, ti auguro il meglio per la tua carriera, poi pure prima dal punto di vista lavorativo, poi dal punto di vista come wrestler o aggiungiamo pure musicista. Vabbè, ho un po' invertito troppo gli ordini, però il senso è sempre... Io a te come intervistatore. Grazie. Allora, concludiamo con... se vuoi aggiungere qualche cosa dal punto di vista degli obiettivi futuri, che già in parte già hai risposto precedentemente, più i tuoi social dove ti possono supportare. Poi, se voglio anche sopportarti, vabbè, ma mi devono sopportare prima di supportare. Comunque, prego, allora, ripeto un momento, se vuoi aggiungere qualche cosa sugli obiettivi futuri e poi i tuoi social, prego. Comunque, è proprio l'ultimissima domanda. Poi c'ho un ultimo messaggio. Obiettivi futuri è farmi conoscere. È il migliorare finché non diventerò un virus nel sistema, diventerò un argomento fisso di cui molti parleranno, e penso che sia l'obiettivo principale da cui poi, diciamo, divulgherà molti altri obiettivi piccoli che mi vorrò dare, molte altre piccole soddisfazioni che mi vorrò prendere. Ovviamente servono sacrifici per farlo e ne sono pienamente consapevole. Per quanto riguarda il dove stalkerarmi, supportarmi sui social, ragazzi, Black, trattino basso bull, quando il posto è là di Black, perché se non mi faceva mettere il profilo, è molto triste questa strada, molto veloce. E boh, per chi fosse interessato anche alla musica, per quanto riguarda potete cercare Herbie, trattino basso, devil.trinity, molto semplice. Quindi, per chi è appassionato di wrestling, Black Bull, per chi è appassionato di wrestling e musica, Black Bull e Herbie Devil Trinity. Giustamente dovevi precisare, se qualcuno pensava male, no, c'è doppio senso, non è giusto che il nostro ospite ha dovuto precisare, però chissà perché Instagram, chissà perché, vabbè, comunque era tanto per ovviamente farti... su Instagram, ragazzi, su OnlyFans un altro nome, no, dai, scherzo. per carità, c'è di tutto di più, quindi non è che nessuno deve, non mi permettere mai, e nessuno deve farlo, a parte gli scherzi. Comunque torniamo seri, ringrazio ancora il nostro ospite, vedo solo un minuto e ci salutiamo. Allora, questa intervista sarà ancora presente su Twitch, poi la potete recuperare nella nostra library su gsradio.it, dentiradio.net, radiowifiofficial.it, ovviamente sulle maggiori piattaforme digitali, Spotify, Amazon Music, Pop Podcast, anche se vivete negli Stati Uniti, anche su Pandora, e se anche non ci vivete sapete benissimo come poter ascoltare. Non posso fare pubblicità ovviamente, però se volete, ci mancherebbe, questa intervista ne vale la pena riascoltarla più e più volte, perché veramente Black Bull si è veramente messo, metaforicamente parlando ovviamente, a nudo. Sappiamo di tutto di più di Black Bull, ormai lo conosciamo più come persona che come musicista, che come rugbyista, che come wrestler, sappiamo tutto di lui, a parte gli scherzi. Grazie ancora al nostro ospite, seriamente gli auguro il meglio. Ringrazio ancora chi ci ha guardato, chi poi recupera l'intervista in un secondo momento, sia su Twitch che sia in audio. Seguite e supportate l'FCW, ricordate Catch is Back sabato 26 aprile a Pero, ore 21:15. Seguite e supportate The Italian Immortal TG Giacomo Giglio. Da Pino Fasciano e l'ora del wrestling è tutto. Grazie ancora a Black Bull, seguite e supportate. Grazie. Seguite e supportate Black Bull. È tutto. Buonanotte, buone botte e grazie a tutti. Alla prossima. Sento il ruggito del cuore nel petto, occhi di tigre in cerca di un tetto. Sul ring si combatte senza paura, la folla esplode come tempesta pura. La luce sfavilla nei guantoni, adrenalina scorre come bolleoni. Ogni colpo un tuono che squarcia il cielo, non c'è spazio per dubbio o gelo. Pugni di fuoco che bruciano forte, ogni secondo una nuova sorte. Vivi o muori senza esitazione, nel ring trovi la tua redenzione. Il sudore scolpisce la mia pelle, risorgo dalle ceneri come stelle. Testa alta, non si torna indietro, ogni sfida ha un quadro perfetto. Niente può fermarmi mentre lotto, spirito invincibile in moto. Le note mi guidano come vento, accolgo il destino nel firmamento. Pugni di fuoco che bruciano forte, ogni